L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio e bentornati all'altro pianeta, quello della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente. Anche se molto di ciò di cui parleremo oggi dimostra tutt'altro che amore e rispetto per il nostro ambiente, che è l'Italia. Parleremo infatti di suolo e di consumo del territorio. Per chi volesse riascoltarlo, abbiamo già affrontato l'argomento in dimensione europea questa mattina nei reportage di Radio 24, che potrete riascoltare da lunedì sul sito internet di questa radio, come del resto potrete risentire questa trasmissione. Basta frugare nella sezione programmi, cercare reportage per il reportage e l'altro pianeta per questa trasmissione. Stiamo vedendo attorno a noi una pianura che è stata letteralmente massacrata dalla costruzione selvaggia di edilizia residenziale, industriale e commerciale. Il suolo minacciato, che stiamo sentendo in sottofondo, è un film documentario sullo stile dei documentari di Michael Moore, per intendersi. È un impietoso e realistico ritratto di ciò che sta accadendo nella pianura padana, dove nella sola Food Valley Parmense, luogo di produzioni agroalimentari di eccellenza, il cemento consuma un ettaro al giorno di suolo agricolo. È un film sul Parmense, è vero, ma grazie alle interviste a esperti, ad agricoltori locali, si affronta il tema a livello nazionale, il tema del consumo di suolo, appunto, e della dispersione urbana. Il territorio è usato esclusivamente per costruire, è merce per costruire, come la calce, il mattone e il calcestruzzo. L'ha girato Nicola Dall'Olio, un regista tra virgolette improvvisato, perché in realtà è un geologo laureato anche in filosofia che lavora presso il Servizio Agricoltura della provincia di Parma. Prodotto da WWF Parma e Legambiente Parma, con diverse altre associazioni ambientaliste locali, il film è di quelli da bere come una medicina, perché bisogna essere malati per non vedere lo scempio che si sta compiendo attorno a noi. Nicola ormai non sa nemmeno più quante scuole, quante amministrazioni, quanti circoli culturali hanno usato il suo film. È su internet e chiunque lo può scaricare. Io l'ho visto con lui a Bruxelles, perché il suolo minacciato è arrivato fin nelle stanze della Commissione europea. Noi facevamo come associazioni ambientaliste degli interventi, dei seminari, cercavamo anche di far comunicati stampa sui numeri, però i numeri alla fine, cioè, servono alla comunità scientifica, ai tecnici, agli amministratori per capire il problema quantitativamente, ma non raggiungono l'opinione pubblica, dicono molto poco, no? Quindi e intanto il fenomeno avanzava in maniera molto eclatante ed evidente, quindi noi abbiamo pensato proprio di metterlo sullo schermo per renderlo oggettivo, per dare quasi una scossa, no? Perché ci si abitua un po' al brutto, ci si anestetizza un po' girando, si cerca di rimuovere, no? Di non vedere più, ci si chiude un po' in questi viaggi tra casa e lavoro senza vedere quello che si attraversano dei territori, non li si vivono, poi non si abitano più. Il film non volevamo fare solamente una denuncia, quindi volevamo andare oltre, quindi porre un problema, capirne un po' le cause e far capire soprattutto che esistono modelli alternativi. Insomma, uno dei grossi problemi comunicativi è che questo modo di sviluppo urbano viene venduto come qualcosa di ineluttabile, di cui noi dobbiamo meno male prenderne tutti i costi, perché è comunque l'unico modo di avere sviluppo. Invece altre nazioni europee hanno preso direzioni molto diverse, che proprio intendendo lo sviluppo economico in maniera completamente rinnovata, slegata dall'utilizzo di risorse naturali a partire dal suolo, quindi sganciare la crescita o l'aumento del benessere, la diffusione del benessere dall'utilizzo di risorse non rinnovabili. Sul suolo la Germania ha fatto delle scelte molto precise e molto forti a livello nazionale, ponendo dei limiti quantitativi per ridurre il consumo di suolo e per arrivare poi a tutta una serie di provvedimenti che facilitano questa politica, se vogliamo, nazionale. Tra questi c'è la compensazione ecologica preventiva, che a Milano poi tra l'altro è molto approfondita dal Politecnico di Milano, in particolare da Paolo Pileri e dal suo gruppo di ricerca ed altri, proprio che vuole far passare il principio che qualsiasi consumo di suolo è comunque un costo ambientale ed economico, ma soprattutto un costo ambientale che deve essere compensato in qualche modo. Allora, questo da una parte fa entrare un principio ecologico fondamentale, cioè bisogna avere ormai un'invarianza degli impatti zero nella nostra anche modificazione del territorio, nella nostra crescita del sistema economico produttivo. Dall'altra serve anche per controbilanciare o far aumentare gli oneri di chi va a costruire sull'area vuota, quindi favorisce in maniera indiretta il riutilizzo, perché se tu vai a riutilizzare non hai bisogno di fare alcuna compensazione ecologica, quindi hai dei costi inferiori rispetto a chi va a costruire. Invece da noi succede che si costruisce moltissimo in aree, diciamo, agricole, perché è quelle che sono quelle che poi costano meno e soprattutto sono quelle su cui si possono fare i massimi profitti, soprattutto se si hanno aderenze con le amministrazioni locali e pubbliche con i cambi di destinazione d'uso del suolo. Il paradosso è che gli stessi costruttori italiani interpellati dicano di non essere più interessati o comunque di non essere necessariamente interessati dalla costruzione su terreni vergini, ma che invece preferirebbero ristrutturare e riqualificare centri storici e periferie esistenti, ma che non ci riescano. Paolo Buzzetti è il presidente dell'ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili. Direi che dal punto di vista economico è veramente la cosa che può far risollevare l'economia, dare un grandissimo contributo a risollevare l'economia del paese, data l'importanza dell'edilizia, che è più del 10% del PIL, e facendo cose utilissime. Noi abbiamo tantissime città dove abbiamo i beni artistici da mantenere e valorizzare, abbiamo la manutenzione del singolo edificio, perché il 62% dei nostri edifici è stato realizzato prima del 71 e come tutte le cose invecchiano, e questo riguarda l'estetica ma riguarda anche soprattutto innanzitutto la parte di risparmio energetico. La Comunità Europea ci chiede determinati parametri entro il 2020 e dobbiamo ridurre di moltissimo le emissioni di anidride carbonica, impianti moderni. Poi c'è l'aspetto proprio strutturale del singolo edificio, perché invecchiano, l'80% dei cittadini italiani è proprietario della casa, ma poi le città cambiano funzioni, luoghi che prima erano deputati abitazione servono per altri servizi e il contrario. Allora il cambio di destinazione d'uso, la possibilità di abbattere un vecchio edificio o una struttura non più moderna e trasformarla con cambio di destinazione d'uso e cambio della sagoma esterna è cosa che avviene in tutti i paesi del mondo costantemente, mentre invece da noi era bloccata da norme infinite. Adesso c'è stato un decreto sviluppo attuale che ha previsto finalmente dopo 60 anni alcune norme urbanistiche che facilitano per esempio un'operazione di questo genere e facilitano un po' gli infiniti passaggi urbanistici, perché la verità è che noi siamo lentissimi, per cui lei un intervento a parte sul singolo fabbricato, ma di riqualificazione ad esempio di un pezzo di periferia, no? Ci sono tanti progetti, sa quanti anni ci mettono da noi? 15 anni per cominciare i lavori, in Europa la media di questi progetti è di 5-6 anni, negli Stati Uniti di 2, ma insomma l'Europa di 5-6 anni, senza consumare nuovo territorio. Queste sono tendenze nelle quali l'accordo le assicuro è totale. Noi con i nostri stati generali dell'edilizia abbiamo, dove abbiamo i sindacati e tutte le associazioni di categoria, gli ordini degli ingegneri e degli architetti, Lega Ambiente, non so se mi spiego, tutti, abbiamo trovato grandissimo consenso anche diciamo di tutto il mondo immobiliare dietro a questa grande idea di lanciare un grande progetto di riqualificazione delle nostre città. Servono 4 norme nazionali che vanno sulla fiscalità, che vanno sui beni culturali, e poi ognuno a casa propria sarebbe proprio, noi vogliamo proprio fare una sollecitazione ai sindaci di ripensare alle città nel tempo, anche un obiettivo a 5-10 anni e non solo a domani mattina, che è in genere la tendenza di oggi di affrontare i problemi sempre. Sì, anche perché i sindaci hanno dei problemi contingenti che sappiamo di bilancio e così via, quindi tendono a privilegiare una via che non è quella della riqualificazione urbana spesso. Però lei consideri questo, noi abbiamo studiato il modello francese, non perché dicono le cose che diciamo noi, ma le hanno applicate dalla commissione Attali, hanno tratto degli spunti che hanno fatto. In 2 anni noi abbiamo tutta una ricerca, abbiamo visto i grafici delle tendenze degli investimenti nella riqualificazione della città, hanno ripreso un'impennata, perché hanno dato degli sgravi fiscali, un accordo sui mutui alle famiglie, ecco lì che la riqualificazione è partita. Cioè una cosa che si può fare, non è vero che non si possa fare. Tra l'altro con questi obiettivi, quindi sono anche di qualità, lavorano imprese diciamo più serie, più qualificate, più adeguate al lavoro. Ha detto una cosa molto giusta, in realtà qui c'è uno sforzo da fare, cioè bisogna far funzionare questo discorso della riqualificazione unendolo fortemente a un discorso di qualità, nella quale, e questo riguarda anche molto noi e le imprese, la qualità deve essere la qualità, la sicurezza nel lavoro, la qualità del realizzato, l'ecocompatibilità dei materiali, da dove eravamo partiti, dalla sostenibilità, sia economica ovviamente, pensiamo anche all'housing sociale, agli acquisti che possono fare i cittadini, ma pensiamo anche alla sostenibilità sociale, quindi a queste attenzioni importanti, e pensiamo anche alla qualità intesa sia del costruito, dei materiali costruiti. Oggi troppo poco il mercato premia, anzi spesso per niente, la realizzazione fatta con criteri moderni di risparmio energetico, qualità negli edifici e tutte queste cose qui. Quando andiamo a comprare un'automobile ci stiamo attenti, quando andiamo a comprare una casa molto meno, quindi richiederebbe un grande lancio di questa riqualificazione, anche un grande salto di qualità, che comunque è ormai necessario. Un grande rilancio che è necessario anche per sconfiggere le mafie che inquinano il mondo dell'edilizia. Proprio in questi giorni, Legambiente ha presentato il suo annuale rapporto sulle ecomafie, quantificando per la prima volta il consumo di territorio dell'edilizia abusiva. Enrico Fontana è il responsabile del settore ambiente e legalità. Stiamo parlando di 540 ettari, 540 campi di calcio uno accanto all'altro, 18.000 nuove costruzioni abusive ex novo che si realizzano ogni anno in Italia. Questo è il primo impatto, la cementificazione del territorio che non si conteggia normalmente perché è illegale, perché è nero, ed è già abbastanza impressionante. Poi un altro dato che fa riflettere molto è che buona parte degli illeciti che abbiamo accertato, molto significativa, circa il 40% di questi illeciti, oltre 30.000 reati in Italia, hanno a che fare con le due filiere della criminalità ambientale, tra cui quella del ciclo illegale del cemento, perché la casa abusiva è l'ultimo atto, è il manufatto che si realizza, ma c'è un prima che è fatto di nuovo di illegalità e di aggressione al territorio, e poi c'è anche un dopo, di cui forse varrà la pena parlare, che è l'economia in nero. È l'economia in nero che ruota attorno a questa, quindi una sorta di filiera dell'abusivismo che parte, come ricordavi tu, dalle materie prime e poi dopo va avanti fino anche ai diritti del lavoro negati, alla sicurezza sul lavoro e così via, no? L'intreccio è micidiale. Le materie prime significa controllo del territorio, significa attività estrattive abusive, 18.000 nuove case, ma se guardiamo ad altri abusi rilevanti, ampliamenti e quant'altro, la somma, la cifra sale, arriviamo a 26.500 abusi nel 2010 e la media è più o meno quella ogni anno, l'altro anno nel 2009 erano 27.000, quindi è costante questo abusivismo edilizio, non conosce flessioni, mentre il mercato dell'edilizia legale in due anni ha avuto una flessione molto significativa, intorno al 30-35%, l'abusivismo edilizio è sempre lì. Quindi cave abusive, centinaia quelle sequestrate dalle forze dell'ordine, che significano sabbia, ghiaia, pietrisco, altro impatto ambientale, e poi sì, e tutto quello che accade dopo, perché c'è un grande affare. Costruire case abusive è un grande affare da tempo, che significa lavoro nero, caporalato, evasione fiscale, nessuna sicurezza sui cantieri, ed è un trascinarsi di questi effetti negativi sull'economia del paese, concorrenza sleale anche nei confronti delle imprese oneste, perché se io metto sul mercato 18.000 costruzioni abusive le metterò ad un prezzo ovviamente inferiore a quelle legali, e questo spiega anche perché è un mercato che non conosce flessioni. Quando sono messe sul mercato, diciamo io consumatore, le posso riconoscere come abusive? Sì. È quasi sempre, a meno che non ci sia a monte un atto amministrativo, e capita anche questo, il nuovo abusivismo è fatto anche di questi fenomeni corruttivi molto diffusi, purtroppo il caso più clamoroso è emerso a Reggio Calabria non più tardi di un mese fa, con una serie di arresti fatti dalla procura tra funzionari pubblici, liberi professionisti, architetti e quant'altro, che vendevano le concessioni, per capirci, grazie anche ad un lavoro di indagine fatto prima della magistratura dal Consiglio Comunale di Reggio Calabria, una commissione d'inchiesta presieduta da Nuccio Barillà. Quindi si può anche incappare in un abusivismo mascherato, dove le carte apparentemente sono in regola, le concessioni vengono rilasciate e poi la magistratura, indagando, scopre che sono illegittime, e c'è chi ci ha rimesso anche dei soldi, molti soldi. Purtroppo questa è una parte della medaglia, l'altra è ancora spesso un'impunità diffusa, la difficoltà di intervenire e demolire, e poi questa evocazione del condono anche recente non è un incentivo alla legalità. L'altro pianeta. L'altro pianeta prosegue, come di consueto, con l'intervista di Cristina Carpinelli per parlare, come vi avevamo anticipato, di città e giardini. Emanuele Bortolotti, il suo libro Il giardino inaspettato, che ha come sottotitolo Trasformare angoli di cemento in spazi verdi, è un libro di architettura di giardini che però ribalta molti concetti e ne ribalta uno in particolare, cioè che un libro di architettura per giardini venga comperato solo da addetti del settore. Ah, sì, credo che sicuramente questo è un libro molto urbano, nel senso che parla di verde soprattutto in ambito urbano e la condizione ambientale della città sono peggiorate o comunque sono un'emergenza, ma non è solo questo, credo. Si tratta anche di che le persone stanno riscoprendo il piacere di vivere meglio, di vivere nel bello e non più nel brutto, possiamo dire. E si rendono conto che vivere a contatto con il verde o anche forse una piccola scenografia è una cosa di grande valore. Questo bisogno, come diceva lei, di bello si sta radicando anche in zone inaspettate? Direi proprio di sì, anzi proprio l'idea del libro nasce anche da questa constatazione. Direi che, anzi, che quello che sto notando in quest'ultimo anno, forse molto recente come fenomeno, è che siccome i tempi della politica sono lunghi, bisogna dire anche i soldi sono pochi, è come se i cittadini dal basso si stiano organizzando, si siano talvolta organizzati e prendono in mano la situazione e inizino a fare delle cose loro. Possibile avere anche un piccolo giardino, un piccolo balconcino, impegnandosi magari poco e spendendo anche poco? Ma guardi, sì, il libro ovviamente che è fatto in gran parte attraverso una rivisitazione dei lavori che ho fatto da paesaggista in tanti anni, in realtà in certe parti può sembrare puntato su episodi anche piuttosto sofisticati, costosi, ma invece quello che voglio dire, anche facendone vedere altri, è che il verde non è tempo è per forza una cosa che costa e comunque anche quando costa in realtà è un investimento, sempre che il verde sia scelto bene, sia che la tecnica di queste sistemazioni sia corretta, perché le piante se sono posizionate correttamente, se hanno la luce giusta, se sono nel luogo giusto, se hanno l'acqua eccetera, vivono bene, quindi danno poco lavoro, capisce? È lì il segreto più che altro, farlo bene e farlo in modo corretto. Lei ha introdotto diversi concetti, uno che secondo me è molto interessante è la condivisione dello spazio tra due condomini. Questo elemento sta cominciando a prendere piede, insomma le persone capiscono che un investimento, diceva lei, meglio togliere i soldi al videocitofono e investirli in un giardino, insomma le persone secondo lei stanno cominciando a capire che questo è veramente un investimento per tutti? Ah, guardi, non ho nulla contro i videocitofoni, era una battuta, soprattutto io ho guardato anche molto all'estero, bisogna vedere cosa già all'estero è stato fatto, perché bisogna sempre guardare che cosa già è stato fatto e poi rendendomi conto che la nostra tipologia urbana spesso è basata sull'isolato, sui tanti edifici che insistono sull'isolato e quindi creano al loro interno tanti cortili uno adiacente all'altro, che sono potenzialmente un polmone verde, uno spazio da utilizzare per tutti i condomini eccezionale, se non rimane una parcellizzazione di spazi inutilizzati. E allora l'idea è quella di, come già succede nel Nord Europa, in Germania specialmente molto frequentemente, è quella di, attraverso convenzioni eccetera eccetera, sempre mantenendo l'accesso privato alle proprie case, ma aprire questi spazi e farne veramente dei luoghi dove veramente i bambini possono giocare, si mettono le biciclette, ci si incontra, si vive nel verde, si vive con un'aria più pulita, non a contatto dei gas di scarico, all'interno del proprio microcosmo verde, avendo quindi rivalorizzando completamente i nostri spazi abitativi. Lei lavora soprattutto in Italia? Io lavoro soprattutto in Italia. Italia, anche all'estero, ma soprattutto in Italia. Sì. Lavora in diverse città d'Italia. Secondo lei qual è in questo momento la più avanti, comunque più all'avanguardia di tutte le città su cui ha lavorato? Ma guardi, mi piace dire, anche se sembra una cosa strana, che una delle più avanguardia citerei Bolzano. Perché Bolzano? Perché è l'unica città, una delle uniche città almeno, che ha recepito nel suo proprio regolamento comunale la necessità e l'obbligo di creare tetti verdi quando si costruisce, si cementifica alla base, quindi di compensare con tetti verdi o con il verde attraverso dei parametri ben precisi, e quindi ispirandosi in questo anche al Nord Europa, e compensare la cementificazione con altro verde, e quindi è una visione di lungo respiro strategica che nessuno quasi ha fino adesso avuto. Grazie a Cristina Carpinelli per l'intervista. Andiamo adesso all'altra nostra rubrica, articolo 9. Come l'articolo della Costituzione italiana che dice la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Il microfono passa come sempre a Marco Carminati. Buongiorno da Marco Carminati, abbiamo oggi in collegamento con noi Giulia Maria Mozzoni Crespi, che è la fondatrice del FAI e presidente onorario. Buongiorno presidente. Buongiorno. Ecco, lo so che lei in questi mesi è continuamente attiva per tanti temi, ma in particolare le sta a cuore un tema vicino alla sua città, vicino a Milano, cioè il tema del grande Parco Agricolo Sud. Ci racconti che cos'è questo Parco Sud? Dunque, è una zona verde, una fascia verde che circonda per più di metà la città di Milano. 47.000 ettari di terra fertilissima, piena di fontanili, anche se il 30% di questi fontanili oramai è stata distrutta. Questo parco può rappresentare una grande opportunità per Milano, se fosse conosciuto e ben conservato. Ecco, lei presidente ci ha descritto davvero un paradiso alle porte della città di Milano. Voi del FAI avete una lunga esperienza nella difesa, nell'organizzazione anche del territorio e dei territori che vi sono stati affidati. Ecco, osservando dal suo punto di vista, quali sono i pericoli che incombono intorno a questo parco e quali sono le possibilità che si possono mettere in campo per svilupparlo meglio e farlo conoscere meglio? Il più grande, ci sono vari pericoli di cementificazione, però il pericolo più immediato e più grande, e che parzialmente è già in atto, sono le infrastrutture, cioè c'è il pericolo di quattro grandi sviluppi stradali. Sì. E io glieli posso enumerare. Certo, quali sono? Allora, che attraversano tutti questi sviluppi stradali, attraversano il parco. Uno è la famosa Brebemi, sì. Milano, Bergamo, Brescia in costruzione, parallela all'autostrada A4 per decongestionare l'autostrada. Poi c'è la tangenziale esterna Milano, che è già appaltata, e anche questo è per decongestionare il traffico interno di Milano. Poi c'è il raccordo autostradale 11 Magenta tangenziale ovest, un progetto ANAS che è veramente assurda, si può ancora fermare toccherebbe il parco agricolo, non solo, ma anche il parco Ticino. E questo è solamente motivo di speculazione, perché con due svincoli si potrebbe risolvere il problema. Poi c'è la tangenziale ovest esterna di Milano, anche questo per alleggerire il traffico di Milano, avversata da quasi 40 sindaci, che si dovrebbe fermare, ed è una, sono 50 chilometri di strada, tre corsie, che attraverserebbe molti comuni del Parco Agricolo Sud. E io, allora uno può dire, va bene, ma bisogna decongestionare il traffico, e io rispondo, ma se si facessero dei mezzi pubblici più numerosi, più arricchiti, attraverso trasporti di treni, di autobus e di metro, allora le auto dei pendolari potrebbero essere lasciati all'esterno della cerchia di Milano. Insomma, Presidente, speriamo che ascoltino questo suo accorato appello e anche questa sua dura denuncia di queste attività, così, che non tengono assolutamente conto di quel piccolo importante paradiso che si trova alle porte di Milano, che invece andrebbe rivolto tutto al benessere dell'agricoltura da un lato e dei cittadini che sono vicini a questo parco. Il nostro tempo a disposizione è scaduto, ringrazio molto la Presidente onoraria del FAI. Grazie Presidente. Arrivederci, grazie. E grazie a tutti gli ascoltatori. Grazie a tutti per l'ascolto. Appuntamento alla prossima settimana alla stessa ora. Per scrivermi, vi ricordo laura.bettini@radio24.it, oppure, se lo ricordate meglio, l'altropianeta@radio24.it.